cosa fai per me, cosa fai per te, cosa credi che fermarmi sia facile, chi mi credo io, chi ti credi tu, per permetterti di regalarmi lacrime, sappi che io non sono disponibile, sembro debole mentre sono invincibile, solo stai dentro il corpo mi è rimasto un po' di sapore amaro che non riesco a espellere, medito un altro giorno che non merito, solo un bicchiere in più dentro al mio fegato, preparo il mio corpo con metodo, mi accontento per il momento quasi perfetto, studio le visioni, produzioni, rime, non potrai infrangere il mio modo di vivere, il mio modo di essere costantemente assumere, continuo con questi sperando che basti, costi quel che costi voglio uscirne fuori in piena sua fazione, il mio cervello è l'anestesia totale, niente adrenalina dentro le mie ossa, me lo levo dalla testa ma non mi basta, non mi passa più uscire, mi è impossibile, all'interno del mio tunnel c'è un confine invalicabile, assumo tranquillanti per restare calmo, l'unione di tre menti dalla clicca del cervo, la vita è quella classica, la mente logora, esistenza passata nell'attesa frenetica di scoprire il vero motivo per cui si vive, mischia aspirina in polvere in bottiglie piene, adesso cerco solo il tempo per ricordare quanta strada devo fare per poterti rivedere, come la serie piccola e la gente in capsula, cloni di buffoni a popolare l'isola. Nella mia testa adesso i sogni sfumano, si accavallano, passia dentro di me se gli occhi mi ci annebbiano, bevo qualcosa per tirarmi su, resto steso giù, niente in mano, ma almeno ormai non ci penso più.